Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e bentrovati. Come al solito ci troviamo ogni sabato per parlare di noi, dei nostri figli, di tutti i piccoli e grandi problemi della nostra famiglia. In studio con me, come sempre, Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Naturalmente Alberto ci guiderà per darci preziosi consigli. Avremo anche tanti amici. Alberto, il tema di oggi è molto caldo. Sono arrivate le pagelle, quindi... Anche a casa tua? Sono arrivate anche a casa mia e in realtà abbiamo fatto un piccolo sondaggio. Ci sono proprio criteri di distribuzione delle pagelle molto diverse a seconda delle scuole, della provincia. Oggi siamo sicuri che tutti le avete ricevute, firmate e rimandate al mittente, per cui ne possiamo parlare insieme a voi e insieme ai nostri ospiti. Tra l'altro ci sono state tante novità, l'elementare e le medie, niente più giudizi ma votazioni con i numeri. Ti piacciono di più, Alberto? Ma devo dire che hanno innescato, nonostante a noi non interessasse, un meccanismo di confronto tra bambini che coi giudizi invece non esisteva assolutamente. Quindi io non sono stato troppo entusiasta della pagella coi voti quest'anno. E poi il voto di condotta. Sì, insomma, se sei insufficiente in condotta e sei bravo dappertutto, rischi l'anno. Per essere insufficiente in condotta, Alberto. Ce ne vuole, dici? Ma secondo me sì. Comunque, noi oggi abbiamo in studio una grande voce, un grande professionista di Radio 24, Alessandro Milan. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Nicoletta, ciao Alberto. Allora Alessandro, pagelle, come andava Alessandro Milan al liceo? Partiamo dal peggio, ricordo la peggiore in terza liceo matematica, il primo quadrimestre. Avevo un professore che invece di fare tre compiti ne faceva quattro, non si è mai capito perché in un quadrimestre. Ricordo ancora 3,5, 4,5, 3,5, 4,5, i quattro compiti. Mi ha dato 5 per pietà, credo, facendo media, una media finta. Una media un po' tirata. Sì, abbastanza finta, ma poi ho recuperato. Senti, invece la condotta come andavi? Ma no, dai, la condotta ero abbastanza bravo, non ho mai avuto disastri, insomma. Sono solo alle elementari scappavo un po' di classe, ma perché così. Avevo una maestra che mi aveva preso male, io avevo preso male lei, e quindi scappavo da scuola. Mi chiamavano Pinocchio, infatti. Che polso della situazione avete avuto, per esempio, dai vostri microfoni rispetto a come la gente ha visto il voto di condotta e tutte queste innovazioni portate in questo anno scolastico? Ma bisogna dire che effettivamente in Italia, quando si cerca di cambiare qualcosa, subito c'è questo spaesamento, no? Abbastanza diffuso. Quindi sicuramente registro molte persone che dicono: ma no, ma come si vuole cambiare queste cose? È sbagliato. Devo dire che molte delle critiche, non lo so, sono un po' magari preconcette. In realtà non si è ancora capito e si sta cominciando a capire in questi giorni quali sono le modifiche vere. E io vorrei approfittare, ci ha raggiunto Salvatore Carruba. Ciao Salvatore. Buongiorno a tutti. Allora, prima di chiederti come andavi a scuola, com'era la tua condotta? La mia condotta? Esemplare, naturalmente. Sempre 10? No, dei 10. 10 non si cercava di non dare perché in qualche modo macchiava la pagella, nel senso che dava un tocco di eccessiva esemplarità e quindi al 10 difficilmente si arrivava. Meglio un 9, un dignitosissimo 9. Ogni tanto fioccava anche qualche 8. Alberto, tu come te la cavavi? Io credo di essere stato per tutta la vita uno da 9 in condotta, che secondo me era il giusto mezzo tra l'8 e il 10. Senti Salvatore, tu avevi una bellissima pagella? Cioè, beh, si vede sin da quando si è piccoli la stoffa. Discreta, come? La stoffa si vede fin da quando uno è piccolo. La stoffa non lo so, comunque poi si diceva che chi era bravo a scuola non sarebbe stato bravo nella vita. Beh, questo lo dicevano gli asini per tirarsi su, allora no, le mamme comunque degli asini. Studiavo con passione e quindi qualche soddisfazione c'era, nonostante che abbia avuto anche qualche professore un po' matto ogni tanto nel corso della mia carriera. Alessandro ha ancora bambini troppo piccoli, ma quando sono arrivate le pagelle a casa tua delle tue figlie, qual è stata la tua posizione? Voti brutti, quindi castighi, oppure anche loro sono figlie del papà che hanno e quindi sono sempre andate bene? Sono sempre andate bene, naturalmente il paragone era diverso, perché loro sono state per lungo pezzo, anzi per sempre, senza voti, almeno nelle prime scuole, poi no, avevano i voti, e quindi già il confronto era diverso. Diciamo che sono state bravi in una maniera sicuramente diversa da come non fossimo noi, credo anche con un grado di libertà negli studi maggiore di quella che avessimo noi. Abbiamo in linea con noi Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Salve a tutti. Anna Rita, dimmi almeno tu, che avevi un voto in condotta un po' stiracchiato ed eri un po' asina, perché... No, non ero asina. Però ero molto contestatrice, lo sono rimasta poi nella mia vita, e questo fatto di essere una grande contestatrice alle volte mi portava agli 8 in condotta o alla minaccia del 7 in condotta. Senti, i tuoi di fronte alle tue pagelle? Ma no, devo dire la verità, in realtà le pagelle erano buone, cioè soprattutto nelle materie umanistiche i voti erano molto alti. In matematica, come Alessandro, ecco, qualche difficoltà ce l'avevo anch'io. Però poi tutto sommato la sufficienza anche in matematica si raggiungeva. Sulla condotta in realtà erano anche un po' rassegnati, perché sapevano di avere una figlia abbastanza ribelle e quindi cercavano solo di portarmi ad una moderazione, nella quale poi sono arrivata con gli anni, insomma. Possiamo chiedere ai nostri ospiti di dare un voto al voto in condotta come elemento che può costare la bocciatura a uno studente? Salvatore. Ma ai nostri tempi effettivamente il voto in condotta era un voto determinante, al punto che non ricordo di persone che abbiano... Cioè era una questione veramente di rimento, qualcosa che si temeva molto, molto fortemente, l'insufficienza in condotta. Quindi la disciplina era abbastanza rispettata, pur con le differenze di carattere e di temperamento. Io credo che senza diventare una scuola carcere, però un qualche segnale ai ragazzi che il vivere in comunità, e quindi l'abituarsi a vivere in una società rispettando delle regole e evitando di rafforzare loro la convinzione che si possa fare quello che passa per la testa, sia importante, è una questione educativa da questo punto di vista. Alessandro, secondo te? Io approvo, do un 8, anche perché se tu dici giustamente che mia figlia è molto piccola, ma se il buongiorno si vede dal mattino dovrebbero cominciare a darle già 5 in condotta adesso. Già nella scuola materna? Neanche al nido, perché così la raddrizzano subito, almeno a scuola. Anna Rita? Io concordo con Salvatore, nel senso che di fronte a purtroppo i frequenti episodi di bullismo, delle regole e delle conseguenze nei confronti di atteggiamenti che a scuola sono intollerabili, ci deve essere. Certo, nell'applicazione poi bisogna vedere quali saranno le conseguenze. Un voto non saprei darlo, però concordo con l'analisi di Salvatore. Un voto è anche un giudizio, Alberto. Io non anticipo niente, sarà il tema anche del prossimo blocco, subito dopo la viabilità ne parleremo con persone di scuola. Allora, grazie Salvatore Carruba, ad Alessandro Mila e ad Anna Rita D'Ambrosio, perché si sono messi a disposizione e hanno raccontato le loro pagelle, i loro voti di condotta. Devo dire che però studenti modello, Alberto, averne. Cercheremo i più birichini la prossima volta. Allora, adesso però gli ascoltatori daranno il voto. Certo, date il voto. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo di nuovo insieme, vogliamo discutere insieme a voi una questione educativa associata alla pagella. Dopo essere entrati metaforicamente nelle pagelle dei nostri amici di Radio 24 e dei loro figli, un papà ci fa entrare nella pagella che è appena stata consegnata a suo figlio Luca. Sentite che cosa ci ha scritto. Mio figlio Luca, terzo liceo scientifico, aveva una pagella di tutti i 7. Penserete che c'era da festeggiare e da essere felici. Invece no, perché quando dico tutti 7, dico proprio tutti 7, compreso il voto in condotta. Luca era atterrito per questo voto. La sua classe è sempre stata raccontata come particolarmente vivace. Lui non si è mai tirato indietro, ma mai in modo davvero eclatante. Questo 7 è legato al fatto che durante una gita realizzata nel primo quadrimestre, 4 studenti, mio figlio incluso, sono usciti prima dal museo e se ne sono andati a zonzo per la città, scatenando il panico degli insegnanti che li accompagnavano. È stato sospeso un giorno e molto rimproverato anche da noi. Ma mi domando, questo basta per farlo valutare così severamente sulla pagella? Mi sembra che il voto di condotta sia stato usato per castigare, mentre a me sembrava già sanzionatoria la sospensione. Insomma, come padre sono perplesso. Ma secondo voi un voto basso in condotta non rischia di diventare un boomerang per la stessa scuola che si trova a delegare tutto il suo potere educativo a un misero voto in pagella? Per aiutare il papà di Luca e tutti quelli che come lui quest'anno si confrontano con una pagella in cui sono cambiate tante cose rispetto al passato, abbiamo in linea con noi Giulia Alberico, che è stata docente per 32 anni di materie umanistiche presso istituti superiori di Roma e ha appena pubblicato Quanta Passion, sottotitolo Storie di fatica, d'avventura e d'amore nella scuola pubblica italiana. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno. Allora, questo 7 di condotta mi sembra davvero un votaccio, professoressa. Il padre è rimasto un po' perplesso. Immagino quali che siano state le riflessioni del consiglio di classe, io appunto le comprendo, le posso immaginare, però rispetto al voto di condotta così sanzionatorio, soprattutto così come sta per essere riproposto da ora in poi, io ho molte perplessità personalmente, quindi... sono d'accordo con le osservazioni del genitore. Alberto, tu? Ma io credo davvero che uno studente forse da una parte merita di sentirsi regolato, controllato, contenuto, dall'altro non può essere che tutto quello che avviene al di fuori delle regole passi attraverso un po' il ricatto del voto di condotta, per cui la cosa che mi sento di dire è: se questo 7 è piovuto in pagella, totalmente inaspettato, mai preannunciato, proprio come un'ulteriore punizione che deve aiutare a riflettere, forse è troppo. Se invece dentro al pacchetto di sanzioni, la sospensione, è stato proprio detto e quest'anno il 7 in condotta è uno strumento in più che useremo per farvi capire la responsabilità che avete come studenti quando vogliamo fare anche cose belle con voi e per voi, vedi la gita, allora forse ci sta. Professoressa, come si, nella sua esperienza, come si riesce, come si convince un ragazzo ad attenersi a quelle regole a cui Salvatore Carruba si appellava prima, che sono fondamentali? Il ragazzo deve imparare a conoscerle e a rispettarle. Naturalmente una parte di questo compito, una parte considerevole, spetta alla famiglia, ma sicuramente anche la scuola ha il suo ruolo. Allora... Soprattutto la scuola. Guardi, io penso questo, che i ragazzi sono migliori di quanto le loro azioni e i loro comportamenti possano a volte far pensare. I ragazzi hanno bisogno di regole, hanno bisogno di rigore, ma non di rigidità. Quando i ragazzi entrano a scuola, soprattutto nella scuola secondaria, va declinato insomma con loro anche quello che è un percorso, quali sono i criteri proprio di rapporto, di relazione, di regole, e queste regole vanno ricordate, negoziate anche con la famiglia. La sanzione sì, ma è soprattutto l'educazione il discorso. Io come mamma mi trovo assolutamente d'accordo con lei, cioè deve essere comunque, tante volte i ragazzi hanno dei comportamenti esagerati a scuola, non voglio sempre giustificarli, ma bisogna imparare a leggere che cosa vogliono dirci e soprattutto ed educarli, e questo io penso che sia un po' la funzione, no? La grande sfida di noi come genitori e di voi come insegnanti. E a proposito di insegnanti, abbiamo in linea con noi un'altra insegnante che spesso ci viene a trovare, la professoressa Paola Melo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa, vogliamo stare con lei proprio all'interno di quei collegi docenti dove avete stilato le pagelle del primo quadrimestre. Questo voto di condotta quest'anno per voi era una novità. Come l'avete utilizzato? Che genere di dibattito c'è stato tra voi professori? Un dibattito vero e proprio, è molto acceso. Per l'attribuzione del voto di condotta abbiamo dovuto ridisegnare appunto i nuovi criteri, e credo che ciascun istituto superiore abbia comunque ai voti freddi, ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, che è praticamente la valutazione molto positiva, abbiamo discusso moltissimo, soprattutto nei voti bassi, cosa voleva dire un 5, un 6, un 7. Ma li avete dati, professoressa Melo? Nel nostro istituto non credo. In un istituto della città in cui insegno è stato dato proprio un 5, 2, un 5 che addirittura noi abbiamo classificato come comportamenti da codice penale. Ecco, tanto per dire, invece quel 5 era stato dato a un ragazzo in un altro istituto, in un liceo classico, perché assolutamente refrattario a qualsiasi stimolazione di studio, di comportamento corretto. Allora io do perfettamente ragione alla professoressa che è intervenuta prima, cioè bisogna rieducare, non si può solo sanzionare, evidentemente ci sarebbe dovuta essere un'opera di comprensione del perché di tanto rifiuto. Ecco. Comunque noi abbiamo veramente cercato di consegnare ai genitori per tempo innanzitutto la tabella dei nuovi criteri con sì. le voci specificate e capire che cosa significava veramente un 7 o un 8, che talvolta poteva essere semplicemente un comportamento non sempre rispettoso verso i docenti, i compagni, il personale, o talvolta poteva aver rilevato da parte nostra non sempre un rigore nell'assolvere gli obblighi. Ecco, bisognava stare molto attenti e specificare molto bene il perché di quel numero. Professoressa Melo, di fronte a un 7 in condotta in pagella, erano più, i genitori erano più arrabbiati con i loro figli o con voi insegnanti? Entrambi. Entrambi, con i loro figli hanno semplicemente detto perché non l'hai, talvolta hanno potuto magari dire perché non me l'hai detto prima, che non so, hai detto una parolaccia in corridoio ad alta voce sentita da tutti, oppure hai dato uno spintone un po' troppo così violento al tuo compagno, oppure sei entrato in ritardo 4 volte e non ci hai detto niente. Ecco, questo poteva essere il dialogo, immagino sia stato questo. A noi sono venuta a dire e però... Come siete? Ecco, questi, però, i soliti professori. Rovinare una pagella con quel 7 che non ha certo la valenza dei 7, no? Di profitto medio-alto. Delle... Sì, sì, ce ne abbiamo sentito dei corretti talvolta anche da stadio. Professoressa Alberico, salti di qua dall'altra parte della cattedra, tra noi genitori, anzi. Sono una madre anch'io. Ecco, voglio dire... A parte che secondo me il voto di condotta è dato, però andrebbe declinato in tante voci, perché anche la professoressa Melo diceva la parolaccia in corridoio piuttosto che lo spintone in ritardo è una cosa molto diversa rispetto, no, ad episodi di bullismo piuttosto che alla disattenzione del ragazzo. Cioè ci sono tante sfumature e tante voci che compongono la voce condotta, ma su questo poi ritorneremo. Volevo invece chiedere a lei, nella sua esperienza di insegnante e di mamma, che cosa possiamo dire Noi genitori ai nostri figli per convincerli che il voto di condotta è importante, non solamente perché può compromettere il risultato scolastico, ma soprattutto perché, insomma, noi siamo prima di tutto persone, prima di essere studenti, no? Certo, certo. Ma guardi, più che dire bisogna viverla la situazione. Secondo me va, come dire, detto, comportandosi ai ragazzi quali sono le regole del vivere insieme, e quindi sia per la scuola che per la famiglia vanno un po' di pari passo delle comunicazioni verbali con un comportamento, semplicemente. E allora imparare a rispettare l'altro, a sentire le regole come una necessità, ma proprio per questo possono anche essere infrante le regole, quindi vede, anche sul discorso di condotta vanno valutate le situazioni di comportamento, anche rispetto ad una norma, come dire, astratta, che proporrebbe un superamento di un mantenimento di una scala neutra di normalità di comportamento, che vuol dire, insomma, anche un ragazzo troppo silenzioso, troppo quieto, troppo accondiscendente non è partecipativo, quindi certo, non è l'ideale. Io mi porrei il problema, capisci? Non so. Certo, no, ma è stata assolutamente chiara. Quindi, io dico, insomma, di fronte a dei ragazzi con dei comportamenti, degli atteggiamenti che creano problemi, cercare di parlare, di capire, di individuare appunto le situazioni e poi un ventaglio di azioni con la famiglia, con i servizi sociali, se è il caso, con lo stesso ragazzo, e poi comunque sempre spiegando, perché perché sempre spiegando e tenendo sempre molto stretto il rapporto tra insegnanti e noi genitori. Assolutamente. Questo sì. Secondo me è un po' la strada. Io ringrazio la professoressa Melo e la professoressa Alberico che ci hanno aiutato a guardare le pagelle dei nostri figli con un altro paio d'occhiali, come dice Alberto Pellai. Vi auguro una buona giornata. Grazie professoressa Melo, grazie professoressa Alberico. Grazie, buongiorno. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, ci ha raggiunto anche un'amica, Maria Piera Ceci. Ciao! Ciao, grazie dell'ospitalità. Perché oggi siamo uniti e speriamo di ripetere questo esperimento in occasione della giornata nazionale del Braille. Quindi i nostri due programmi si sposano per mandare dei messaggi e per parlare di questa giornata così importante che tra l'altro cade proprio nel bicentenario della nascita di Louis Braille. Allora, parlando di Braille, io ho in linea con noi l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Avvocato, tra l'altro proprio oggi a Catania si sta svolgendo un convegno molto importante che sottolinea ancora una volta come questo sistema di scrittura, come lo definisce Camilleri, l'alfabeto dove le parole si toccano, abbia cambiato radicalmente la vita dei non vedenti e anche degli ipovedenti. Quindi è molto importante per noi unirci in questo giorno insieme a voi, dato che Radio 24 è la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti. Ma avvocato Castronovo, il Braille è stato veramente una rivoluzione e lo è ancora oggi alle soglie del terzo millennio. Perché? Innanzitutto dico che Catania è la sede della stamperia Braille più grande d'Italia, dove facciamo milioni di pagine Braille e anche largiprinti per gli ipovedenti. Per questo abbiamo promosso questo convegno a notevolissimi livelli, per non dire ad altissimi livelli, perché il Braille, ecco, è la luce dei ciechi. Il Braille è questo sistema meraviglioso, meraviglioso, che ha consentito fin dal 1830 ai ciechi di tutto il mondo, oggi ai 50 milioni di ciechi di tutto il mondo, di riscattarsi dall'ignoranza, dall'emarginazione, dall'isolamento, perché ci ha messo nelle condizioni di praticare il diritto allo studio, di praticare, di vivere la cultura che uno desidera, le pubbliche relazioni o le relazioni personali con la società, di essere persone che prima non eravamo considerate tali. E quindi questo grande benefattore dell'umanità, che io ho fatto una proposta di premio Nobel alla memoria, perché un uomo come Louis Braille, che è diventato cieco a 3 anni per un incidente nella sua casa, perché il papà era un sellaio, sì, e allora con uno strumento della bottega si fece male ad un occhio e il male di quell'occhio si trasferì sull'altro e perse la vista. È una bella idea. Quindi l'avvocato Castronovo propone un Nobel per Braille. Noi abbiamo in linea due altri ospiti che si aggiungono. Oggi siamo veramente una squadra, mi piace, proprio facciamo famiglia. In linea con noi abbiamo la professoressa Rita Puglisi, docente di pianoforte, non vedente. Buongiorno. E abbiamo in linea con noi un ragazzo giovane, Luca Grasso. Posso darti del tu, Luca? Ci mancherebbe. Ecco, buongiorno. Tu sei il responsabile oggi dello showroom. Sì, che c'è proprio a Catania. Che si chiama Frammenti di Luce, che è all'interno e della stamperia regionale Braille, che espone, vende, facciamo esposizione, vendita, assistenza e consulenza. Consulenza ed assistenza pre e post vendita di tutti i prodotti che esistono per non vedenti, quindi dal prodotto. Senti, vero Luca, che è l'unico in Italia? Ce n'è uno a Parigi. Ce n'è uno a Parigi e uno a New York. Allora, siamo i terzi. Siete i terzi, quindi siamo in tanti. Alberto, so che vuoi intervenire per... Ma Luca mi interessa proprio come un giovane e ci sta ad hoc nella nostra trasmissione. Vorrei chiedere a lui se ci prova a far capire come genitori, come educatori, quali sono le sfide di entrare in adolescenza essendo non vedente e che cosa ti succede, cioè come entri nel mondo, cosa vuoi prendere dal mondo, cosa impari dal mondo e cosa insegni al mondo? Allora, io dal mondo mi aspetto semplicemente integrazione che non va solo voluta dagli altri, ma va principalmente voluta da noi. Voluta da noi perché io dico sempre che quando noi molte volte pensiamo che la società non voglia entrare in contatto con la disabilità, io in questo caso mi riferisco specificatamente al non vedente, tante volte non è perché non si vuole, ma è semplicemente per una questione di muri della comunicazione, cioè una persona che non conosce un non vedente non sa come si deve porre. Io dico sempre alle persone che vengo e che vengono a visitare qui la struttura, sono circa 300-350 a settimana, dico sempre che a un non vedente, per esempio, non vi dovete preoccupare di dire hai visto, perché io dico che si tocca e si guarda con gli occhi, si tocca con le mani, ma si vede col cervello. Guarda, quindi... Luca, sai che hai ragione. Io quando molto spesso ho l'avvocato Castronovo in A Essere Benessere, e a cui io sono legata con una profonda amicizia, perché conoscendo lui è veramente una persona eccezionale, mi ha portato per mano ad avvicinarmi come giornalista e come donna in tutto il mondo dei non vedenti e di ipovedenti. Me l'ha fatto proprio conoscere con una grazia e una delicatezza sua, che sono sue caratteristiche, e la confidenza mi dice: avvocato Castronovo, ci vediamo. Arrivano subito i messaggi, le mail, gli sms dicendo: ah, ma ha fatto, ma come, lei scrive così, dice così, quasi una sorta di rimprovero. Invece io ho proprio imparato dall'avvocato Castronovo, e tu ce lo insegni, a buttare giù queste piccole barriere che noi vedenti ci creiamo e che in qualche modo intralciano. Infatti mi sembra bello sottolineare questo aspetto, Luca. Lo scherzare dell'avvocato, che è eccezionale, è proprio il miglior modo per spezzare le barriere della comunicazione. Perché io infatti nelle visite mi comporto molto spesso come lui mi ha insegnato, cioè scherzo con i ragazzi, scherzo con la gente. Avvocato, per esempio, dico spesso: perché mi state, quando sento un po' di silenzio, dico: perché mi state guardando così? E loro scioccano. avvocato. Sì. Avvocato, insomma, è diventato un po' la nostra guida, il nostro modello per parlare di integrazione, ma soprattutto per viverla. Ecco, a proposito di integrazione, qua subentro io. Castronovo parlava di diritto allo studio, di quanto il Braille evidentemente abbia aiutato in tal senso. Poi nella seconda parte, in obbligo di frequenza, continueremo a parlare di questo e approfondiremo il discorso del diritto allo studio. Diritto allo studio che però è anche diritto allo studio della musica, e qui subentra la signora Rita. Signora Rita, quanto è importante, Rita, la professoressa di musica che insegna ai non vedenti a studiare musica attraverso un pentagramma che immagino sarà molto particolare. Com'è fatto questo pentagramma? Mi incuriosisce. Intanto vorrei dire questo: io insegno strumento musicale presso una scuola media di indirizzo musicale qui in provincia di Catania. Sì. E insegno a tutti i bambini, a tutti i ragazzini della scuola media, dove appunto si insegna. Insegnano quattro strumenti: il pianoforte, che è la mia specialità, e la chitarra, il flauto e il violino. E allora praticamente questo mio sistema, che è un vero sistema integrato, prevede un percorso già nella prima fase dell'infanzia, attraverso la memorizzazione, l'interiorizzazione del suono da parte di tutti i bambini, e quindi anche quelli specialmente con disabilità visiva, visto la mia è per i ragazzini vedenti e per quelli non vedenti e anche di altre disabilità, visto che io comunque vivo il mondo della scuola, che è per tutti comunque. E quindi appunto una metodologia che prevede la conoscenza, quindi attraverso l'esperienza, e una simbolizzazione spaziale dove il bambino, anche con disabilità visiva, può costruire, accompagnato dal tecnico, quindi dall'insegnante, una sorta di pentagramma, in modo tale che va a capire quella che è la relazione tra i suoni che già spaziano sperimenta negli strumentini, ma anche ai primi approcci al pianoforte, uh-huh. e in modo tale che il bambino lo sperimenta anche attraverso il corpo e poi con la spezialità del pentagramma, per passare poi alla metodologia musicale Braille, che sappiamo comunque è immobile e abbastanza arida, certo. E quindi a volte è difficile. Però Rita, mi scusi, mi piace pensare ai bambini non vedenti, ai bambini ipo e non vedenti, ai bambini che invece ci vedono, che sono uniti, imparano insieme questo linguaggio universale che è la musica. Io in chiusura vorrei chiedere ancora una battuta proprio rapida ai nostri ospiti, perché noi ci traghetteremo tra poco in obbligo di frequenza. Assolutamente, perché vero sì, che ci cascaterete, no? No, vedo che Alberto è già bello, contento e sorridente, possiamo stare più tempo insieme. Avvocato Castronovo, abbiamo un secondo a testa per ricordare l'importanza del Braille in questo giorno così importante per tutti noi. Ma il Braille dovrebbe essere anche conosciuto da tutti i viventi, perché mentre il non vivente non può obiettivamente conoscere la scrittura in nero, noi diciamo la scrittura in nero, la vostra scrittura, però se il vivente, il compagno di classe, l'insegnante, l'amico potesse apprendere il Braille, sarebbe un ulteriore mezzo di integrazione, di comunicazione fra le persone. Ecco, noi auspichiamo questo, perché poi non è difficile apprenderlo, va bene? Cioè, aggiungere luce a luce. Luce a luce. Allora, un saluto all'avvocato Castronovo. Grazie davvero a Luca Grasso, a Rita Puglisi, che sono stati con noi in questa casa che non è un albergo. Grazie, buona giornata. Una giornata importantissima che ho avuto il piacere di tutti noi di festeggiare con voi. Grazie. E voi fermi tutti, perché ci risentiamo fra pochissimo dopo lo stacco pubblicitario. E noi ci saremo.